c'è qualcuno qua. Attenzione canale 10. Attenzione lì, c'è qualcuno in ascolto. Su canale 10, c'è qualcuno in ascolto. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione canale numero 10, ascoltate, vi sonderò sono Solino di Piacamo, provincia Trapani, Gambia. Attenzione canale 10, ascoltate, vi sonde con provincia Trapani, chiama, cappa. Del nord Italia, ascoltate Androsso, siamo Trapani, chiama. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ 10? Ora CQ canale 10, assenteissimo urti, proprio... Attenzione 10, hola CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, CQ canale 10. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? È più forte. Vai, fatti tornare il resto che ti hanno fregato. Natale. Ciao Robby. Stavo chiudendo, avevo un caso ero chiudente, ero un po' in altre bande, ma c'è poca propagazione, non c'è quasi nessuno, per cui ho detto c'è il video, ho acceso qua su canale 10 e c'è gente in banda laterale su questo canale USB, adesso hai risposto tu, ma avevo un caso, ho uso 30,8 qua dentro, fuori si sta bene, ma in casa è accumulato tutto il caldo. E stessa cosa ti dico, io ero fuori, sono rientrato adesso, la verità. L'ho acceso in macchina, mi ho fatto una piccola modulata sul 23 perché su 10 tutti morti, tutti assenteisti. Ah, te lo sono messo in macchina il baracchino? Ce l'ho quello piccolino, no? C'ho l'antenna magnetica e uso quella perché non l'ho tolta da fissa, ma capito. Ma vedo ogni tanto davanti all'officina passa una grande punto, c'ha due antenne, una ACB e con una magnetica e poi c'è un'antenna che credo che sia per le VHF o è qualche radioamatore, ma non saprei dirti. Comunque già mi devo buscare un'altra magnetica io per poter... Aspetta. Stavo dicendo Robby, mi devo buscare una magnetica con attacco a PL perché c'ho l'antenna bibanda io, no? Quella da 1,5 metri. Ah scusa, ma tu in macchina non c'hai già il foro sulla cappotta per l'antenna della radio normale? Se la metti direttamente lì e non stai a romperti le scatole, ti metti un duplexer che ti faccia la radio e tra l'altro non c'è neanche bisogno perché tanto funziona bene con l'antenna. Ti metti un duplexer, se li vendono, che ti fa la radio e il baracchino insieme. No, ce l'ho un'antenna VHF lì attaccata a quel buco lì, c'ho l'antenna VHF, però io ho una bibanda che ha l'attacco a PL femmina, capito? Guarda, io me la sono comprata, anzi non io, me l'ha ordinata a Walter, una Diamond, la devo mettere nella multipla, siccome la multipla la mia è nata a taxi, e dietro c'ha già tutto passato con i PL e gli attacchi, non l'ha già ancora piazzata, che non ha giù tempo di nulla, non ho piazzato neanche due, devo mettere due antenne sul tetto, c'è troppo caldo e non ne ho voglia. E cosa ti volevo dire? Ma i corsi adesso per agosto hanno sospeso? Hanno sospeso sì, domani c'era lezione. Invece mi hanno mandato il messaggio che non c'è perché c'è gente in ferie, ancora hanno ragione anche loro. E vabbè, là, quando riprendono, riprendono. Che lui ti dica. Ma che c'è anche Danilo? Lui lo sta facendo il corso? No, lo sta facendo Antonio il corso. Antonio Gixo. No, non dico come esaminatore, come istruttore, parlo di mio allievo, Danilo pure c'è. Non lo so, non lo conosco. Perché lui l'aveva già fatto l'inverno scorso e poi non ha fatto in tempo a presentarsi perché è arrivato in ritardo con il corso, che è anche appassionato lui. E JXO già lo conosco, ma c'è anche l'altro Antonio, come si chiama, adesso non mi ricordo il nome, tipo quello più anziano, dai. E c'è Nando, c'è Gianni Vincis. Perché, allora scusa un attimino, ma si dividono i compiti o qualcuno fa per dire elettrotecnica, l'altro normative, o se le alternano? Molte volte se le alternano, ma il più delle volte è Antonio che fa lezione, capito? È preparato, bravissimo. È appassionato, già l'ho conosciuto di persona pure. Ok, ci sono gente di Sassari, solo tu ci sei? No, c'è California, Torre, Daniele, insomma ce n'è gente. Ma Daniele è quello nostro? Sì. Ma di Daniele non lo sapevo, dai, è meglio così, almeno c'è gente nuova e si ripopola un pochettino. Mettetevi a studiare però, non vi cagate sotto, magari, oggi non ne ho voglia, vado domani, come succede? Mettiti d'impegno, Natalì, se hai interesse, non saltare le lezioni e vacci. Lezione non ne ho saltato neanche una, anche se mi sono preso 3 settimane di Covid, che sono negativo da avanti ieri. Ma se c'è qualcuno che chiama, avanti che chiama? C'è avanti? Scusa, io della briga, la provincia Valenza. Vabbè, non si comprende nulla, sono due o tre che stanno parlando uno sopra l'altro. Ok, Natalia, io mi sposto da qua che mi sto sciogliendo, cioè ci sto sudando e sono in pantaloncini, guarda un caso, mamma mia. Dai, ci sentiamo con calma un'altra occasione, stammi bene Natalia, ciao ciao. Altrettanto, ciao, grazie per le 4 chiacchiere, alle prossime. Thank you.